Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E chiaramente buonasera da Sebastiano Barisoni. Allora, si è concluso il vertice Ecofin, i ministri economico-finanziari dell'Europa, ieri sera l'Eurogruppo, ha parlato anche il nostro ministro Tremonti, preoccupazioni per gli aiuti francesi. E quindi si è detto chiaramente, attenzione, un'ipotesi di aiuti al settore auto che privilegi o perlomeno che imponga, che solleciti i costruttori a utilizzare solo componentistica e produttori di componentistica francesi, Made in France, non può passare in Europa. Poi altre notizie di cui parleremo, i tagli, questa volta toccano anche i colletti bianchi della General Motors, toccano i colletti bianchi, quindi i managers, ma anche i loro bonus, addirittura 10.000 saranno i colletti bianchi licenziati dal General Motors. Sempre sul settore auto, la Cina sorpassa definitivamente gli Stati Uniti come primo mercato al mondo e lo ha fatto per la prima volta a gennaio nella storia, 735.000 vetture contro 657.000 in America, più per effetto, devo dire, del crollo delle vendite in America che di un grosso incremento in Cina. Andiamo avanti, parleremo della nostra produzione industriale. Ahimè, il mese di dicembre, come ampiamente atteso, ha portato a un crollo del 12% nella produzione industriale. L'auto da sola fa la parte del leone, meno 48%. E poi parleremo anche di come le piccole e medie imprese stanno affrontando la crisi con le banche, nel senso che ci sono dei rapporti in cui le difficoltà, mi dispiace dirlo, sembra che poi ce l'abbiamo con le banche italiane, ma le difficoltà dei piccoli e medi imprenditori restano, permangono nell'ottenere i crediti, non con tutte le banche. Ci sono banche che hanno lavorato molto bene sul territorio in Italia, sono rimaste localizzate sul territorio, hanno imbarcato pochi titoli tossici o quasi nessuno, penso alle banche di credito cooperativo, alle banche popolari, a molte banche popolari, a varie banche di credito, insomma. Però i problemi restano e anche di questo ci occuperemo nella seconda parte del programma, per capire esattamente quanto sia il giro di vite applicato dalle banche alle piccole e medie imprese e anche quali siano le richieste delle piccole e medie imprese di fronte alla crisi. Oggi una indagine su 1600 aziende in tutto il territorio nazionale, ne parleremo con chi l'ha curata. 349-238-6666 per gli sms, la borsa e quindi le notizie in breve, come sempre in apertura. Meno 1,7 il Mittel, meno 1,5 l'S&P MIB, peggio fa Parigi, meno 2,1, pesante Francoforte, meno 2,5, Londra meno 1%, il motivo oggi si chiama soprattutto Wall Street, che perde il 2,1% sul Dow Jones e il 2,3% sul Standard & Poor's, euro a quota 1,30 e sul dollaro chiaramente e a 88 sulla sterlina. Da segnalare che da pochi minuti ha iniziato a parlare il nuovo ministro dell'economia americano, il segretario al tesoro Geithner. Vi daremo una sintesi di quanto sta dicendo, ha iniziato da qualche istante, fra circa 20 minuti, molto atteso il suo discorso, il primo dopo l'intervento di Obama di ieri notte, ora italiana, il primo discorso, diciamo così, articolato e istituzionale del neo segretario al tesoro. Tra i titoli segnaliamo Saipem meno 5,2, Tenaris meno 5,1 come Seat, Fiat meno 4,7, Mondadori meno 4% come Prismian e Generali perde il 4, Mediolanum il 3,1, il 3% lo perde Mediobanca e anche Unipol e Bulgari e il 2,90 Lux Ottica, il 2,8 Eni e anche Enel, il 2,7 lo perde Steam Microelectronics, il 2,5 l'Ottomatica, ma anche Mediaset, Buzzi Unice meno 2,4%, il 2,3 lo perde Mediolanum, il 2,1 sia Fondiaria che L'Espresso che Fastweb, 1,8% il calo di Intesa San Paolo, 1,5% Telecom e Impregilo, ma anche Atlantia, Parmalat e Alleanza. Guadagnano solo Pirelli, più 2,6% Terna, più 1%, Snam Rete Gas, più 0,7% e poca cosa la Popolare di Milano, più 0,1%. Ancora non ho novità su, a chi ce lo chiede, sulla vicenda IT Holding e ITR, purtroppo ne abbiamo parlato ieri ampiamente, ma non ci sono novità sul fallimento. Andiamo avanti per quello che riguarda le notizie. Si diceva oggi il petrolio continua a oscillare intorno ai $40, ormai devo dire che 38 un giorno, 42 un altro, 40 oggi, ma poca notizia fa il petrolio finché questa crisi ne resta nella sua intensità. La buona notizia di oggi è ancora una volta rappresentata dall'Euribor, ossia il tasso interbancario di riferimento che viene utilizzato poi per calcolare i mutui e i prestiti con lo spread che le banche applicano. È sceso sotto il 2% all'1,99, che significa che oltre a essere a livello minimo del 1 aprile 2004 è anche più basso del tasso di sconto ufficiale deciso dalla Banca Centrale Europea. UBS non si placa il rosso della più grande banca svizzera, che ha chiuso il quarto trimestre con 5 miliardi e 300 milioni di euro di perdite e ha annunciato un'ulteriore riduzione del personale per il 2009. Gli analisti si attendevano una perdita di 4 miliardi massimo e non di 5 miliardi e 3. Per l'intero anno il rosso con cui chiuderà la prima banca svizzera, quella che era anche una delle più grandi banche in Europa, dico era perché insomma la capitalizzazione è crollata, ma insomma chiuderà con un rosso di 13 miliardi di euro, come ammettono gli svizzeri, tutti riconducibili come cause agli investimenti fatti dalla loro investment bank, quindi prodotti strutturati, cartolarizzati, tossici, derivati, a leva, chiamateli come volete. Sì, ci state facendo notare che la borsa americana sta letteralmente aumentando il calo mentre sta parlando Gaetan. Avete ragione, cerchiamo anche di capire cosa sta dicendo alle agenzie, perché vedo anch'io il Dow Jones peggiorare di 0,5% da quando inizia a parlare il segretario del Tesoro americano. Vedremo subito le agenzie appena verranno battute. Andiamo avanti, in effetti peggiorano anche tutte le borse europee, meno 3,5% adesso Parigi, meno 3,2% Francoforte, cioè nell'arco di 4 minuti hanno perso 0,5%. Eh sì, anche Milano meno 2,6 e meno 2,2 MIPTE. Adesso vi aggiorniamo su Gaetner. Andiamo avanti con le altre notizie di oggi invece. Se da un lato, come dicevo, General Motors ha annunciato 10.000 licenziamenti anche tra i colletti bianchi e i compensi ridotti del 10%, tra l'altro i colletti bianchi americani saranno 3.400, gli altri sono dipendenti all'estero. E sono gli amministrativi, i colletti bianchi come si chiamano, sono il 14% di tutti i dipendenti di General Motors. Oggi gli ex manager a capo di due delle banche inglesi salvate grazie al governo, di fatto statalizzate, e mi riferisco a Royal Bank of Scotland e HBOS, e quindi Tom McKillop da un lato e Fred Goodwin dall'altro, hanno detto, e anche Andy Hornby di HBOS, hanno detto in un'audizione di essere dispiaciuti per la crisi che è costata ai contribuenti inglesi fino adesso 40 miliardi di lire, nel senso che il governo britannico di euro, magari 40 miliardi di lire, perché il governo britannico è dovuto entrare per salvare di fatto con il capitale del tesoro il capitale di queste due banche, e lo ha fatto buttandoci dentro 40 miliardi di euro, il che non vuol dire che questi soldi siano persi, perché attenzione, non sono a fondo perduto, però per ora sono immobilizzati nel capitale di queste banche. E almeno hanno chiesto scusa, dispiaciuti più che chiedere scusa. Sentiamo allora questi passaggi, perché insomma anche sentire come gli ex dei dell'Olimpo si scusano di fronte al Parlamento britannico non è male. Ascoltiamo Stevenson. We are profoundly, unreservedly sorry. Siamo profondamente e assolutamente dispiaciuti per come sono andate le cose. I nostri azionisti, noi stessi, tutti, abbiamo perso moltissimi soldi e anche un gran numero di nostri colleghi. Siamo molto dispiaciuti per questo. Si è creata moltissima ansia e preoccupazione sia tra i nostri colleghi che, per un certo periodo, anche tra i nostri clienti. E siamo anche dispiaciuti per gli effetti che gli eventi hanno avuto sull'intera comunità. Così l'ex presidente di HBO, Lord Stevenson. Sentiamo anche il numero uno, l'altro, mister delegato Andy Hornby di HBO. I'm very sorry what's happened at HBO. Sono molto dispiaciuto per quanto successo alla HBO. Ha avuto ripercussioni sugli azionisti, sui nostri colleghi, sulla comunità in cui viviamo e chiaramente sui contribuenti. Di nuovo, ci dispiace molto per la piega che hanno preso gli eventi e che hanno coinvolto la banca. Extremely sorry for the turn of events that's brought the bank. E per quello che riguarda Royal Bank of Scotland, ascoltiamo nell'ordine Sir Tom McKillop e poi Sir Fred Goodwin. In November of last year. Nel novembre dello scorso anno mi sono scusato apertamente sia a livello personale che per conto dell'intero consiglio. Oggi sono molto felice di ripetere quanto detto in precedenza. Siamo stati particolarmente preoccupati per il serio impatto degli eventi sia sugli azionisti che sull'intero staff e senza dubbio anche per la preoccupazione e l'ansia creata ai nostri clienti. Mi scuso e sono felice di ripeterlo di nuovo dopo averlo fatto pubblicamente davanti ai nostri azionisti a novembre. Mi scuso in modo profondo e senza riserve per il danno causato e non voglio che ci sia alcun dubbio su questo punto. Mentre c'è chi si scusa, come i numeri uno di HBO e della Royal Bank of Scotland, tra l'altro Royal Bank of Scotland, io capisco le scuse, ma pochi mesi prima di dover essere salvata dallo Stato sarà comprata il gruppo olandese ABN AMRO assieme a Fortis e Santander, quindi evidentemente riteneva di essere più che solida, vabbè. Ma oltre alle scuse, chissà come la prenderanno i cittadini britannici, appunto 40 miliardi di euro bloccati per salvare queste due banche sono pari a due, quasi tre manovre finanziarie in Gran Bretagna e sono comunque soldi che non potranno essere dati per rilanciare i consumi. Obama ieri sera, lo avete letto da alcune agenzie, la festa è finita, ha detto Barack Obama, bisogna fermare la spirale negativa, è insostenibile che l'economia si regga solo sui consumi. Le ricette, il piano di stimolo da 800 miliardi, di cui oggi il Senato dovrebbe dare quasi in automatico il via libera, quasi certamente via libera, e poi il salvataggio del sistema finanziario, 4 milioni di posti di lavoro, tra l'altro tra mercato del credito e quant'altro, mercato immobiliare, mercato del credito, sono le misure del successo individuate da Obama e che l'amministrazione si pone come obiettivi dei suoi piani. E poi però resta il problema di Fannie Mae e Freddie Mac, le due ballerine di Broadway, come si diceva una volta, ma insomma i due colossi del prestito immobiliare sono finiti sotto tutela del governo americano, e questo già lo sapevamo, come conseguenza del collasso dei mercati finanziari. Ma potrebbero avere bisogno di più di 200 miliardi di dollari di nuovi aiuti governativi. Questo se il mercato dell'immobiliare, insomma, americano continuerà a peggiorare. Vabbè, prima di partire con il nostro tema, mi riferisco alla produzione industriale. Sì, è vero, avete ragione, ci dispiace molto, saluti e baci, dicono i manager. È un po' così. Prima di passare al tema di Bruxelles, Ecofin, crisi, ancora due notizie. La Ferrari, bilancio record, il fatturato è a 1 miliardo e 921 milioni, più 15% per Maranello. e quindi buonissimo il 2008 per la Ferrari. Le vetture consegnate sono state, a chi interessa se il numero, 6.587, un più 2% rispetto al 2007. E il mercato nordamericano, nonostante la crisi, è il primo, resta il primo per il cavallino, ossia 1.700 vetture, 1.700 Ferrari vendute su appunto 6.600 in totale. Bene anche l'Europa dell'Est, più 23%, e bene anche altri paesi del vecchio continente. Industria, la produzione industriale italiana crolla a dicembre, meno 12,2%, di questo però parleremo nella seconda parte del programma. Ci colleghiamo adesso con Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Enrico. Buonasera. Ancora un ultimo dato, secondo l'ISAE, che probabilmente l'ISAE oggi si becca il nostro animale preferito, l'ISAE dice che a gennaio faremo anche un meno 20% nella produzione industriale, perché la produzione industriale non ha ancora toccato il fondo. Allora, no, dai, aspettiamo con il gufo, oggi vogliamo essere buoni. Enrico Brivio, dici una cosa, poi parleremo dei casi dell'Ecofin più in generale, ma la notizia più grossa oggi riguarda così il monito alla Francia: stai attenta a non usare aiuti di Stato di fatto, oppure la constatazione che servono misure coordinate, che la crisi è ancora in pieno svolgimento, ma insomma null'altro. Ma diciamo che entrambe sono i due lati di una stessa medaglia, nel senso che da un lato la Commissione cerca di salvaguardare il mercato unico, di fare in modo che la risposta a questa crisi non scivoli, non degeneri in un eccesso di protezionismo da parte dei singoli governi, che comunque hanno ripreso più forza e più vigore nella gestione della crisi, ma quindi la Cross su questo versante ha mandato questa lettera di avvertimento alla Francia, spiegando che per esempio alcuni aspetti di quali si era parlato nei giorni scorsi, come l'obbligo per i produttori di servirsi di componentistica solo francese o di investire solo in impianti in Francia, sarebbe incompatibile con il mercato unico, un limite che non potrebbe essere accettato da Bruxelles. Al tempo stesso, comunque, come si diceva, si cerca un coordinamento tra i vari piani di salvataggio, si cerca anche di allentare in qualche modo le regole sugli aiuti di Stato e soprattutto di concordare poi delle regole comuni, e questo è stato l'oggetto oggi dell'Ecofin, dei criteri su quelli che possono essere i bad assets, cioè quei famosi titoli tossici che possono essere eventualmente scaricati su delle bad banks, cioè su dei veicoli che si diventano i portatori di questi titoli, in qualche modo purificando i bilanci del banco. Allora ascoltiamo un aspetto dei due che tu citavi, e quindi la necessità, lo dico con un tono un po' così, perché insomma la necessità di avere politiche coordinate per gestire tutti gli asset tossici, cioè tutti gli investimenti tossici, sta diventando un po' lo slogan della fine 2008, inizio 2009, ma non vedo grossi passi in avanti. Comunque sentiamo Joaquín Almunia, Commissario europeo agli affari economico monetari. Per ciò che riguarda i titoli tossici, la maggior parte dei ministri ha espresso la necessità di combinare le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, cruciale per tornare presto al normale funzionamento dei mercati e del sistema bancario, con la volontà di evitare forme di protezionismo e la creazione di barriere interne al mercato unico in un campo fondamentale come quello dell'attività finanziaria. Per il trattamento degli asset tossici, la soluzione potrebbe essere la creazione di bad banks con modalità diverse in alcuni Stati membri. Invece, in altri paesi, come Regno Unito e Olanda, vi sono meccanismi ibridi. In ogni caso, occorrono principi e linee guida comuni per la valutazione degli asset e per chiarire quali titoli sono ammissibili. Occorre anche agire con una certa flessibilità e non considerare solo i cosiddetti asset tossici, ma anche altri asset a rischio. Senza dubbio, le linee guida devono essere coerenti con i programmi stabiliti ad ottobre. Stiamo infatti discutendo degli sviluppi dei programmi di rilancio adottati mesi fa. Presenteremo tra un paio di settimane le linee guida necessarie per la procedura di assicurazione degli asset a rischio, con un quadro chiaro relativo alla loro valutazione e con l'elenco degli asset che potranno accedere a questi regimi di assicurazione. Il nostro scopo, con queste misure sui titoli tossici, è di consentire un ritorno alla normalità del mercato del credito. Allora Enrico, si diceva che su questo fronte insomma l'Europa continua a sembrare più così un arbitro, un certificatore, un osservatore dell'ONU che un posto e un luogo istituzionale dove si prendono le decisioni. Però noi andiamo avanti, tra l'altro è interessante notare come oggi sul quotidiano francese Le Monde il presidente del gruppo Peugeot Citroën, Streff, dice, ha scritto: il settore auto si trova in questa crisi non perché noi come industria automobilistica si sia compiuti degli sbagli, si sia sbagliato in qualche modo, ma perché il sistema bancario non ha funzionato. Ora su questo avrei qualche dubbio, perché anche l'industria dell'auto è arrivata un po' col fiato corto all'inizio di questa crisi. Comunque non è l'oggetto di questa puntata. Gli aiuti all'auto francese. Gli aiuti all'auto francese, sappiamo che a questo punto la Commissione li terrà sotto osservazione e intende attendere una notifica formale. Pare in realtà che Parigi abbia tolto poi all'ultimo momento questi aspetti più controversi, come l'obbligo di affidarsi a componentistica francese, in quanto sarebbe in patente violazione delle regole comunitarie. Però sotto accusa anche la frase che ha detto Sarkozy un paio di giorni fa, quando disse: capisco che una compagnia francese vada in India a vendere, vada a produrre in India per auto per il mercato indiano, ma non capisco chi va a produrre nella Repubblica Ceca per vendere poi auto in Francia. Ora, una compagnia francese che produca la Repubblica Ceca è dentro l'Europa. Insomma, sì, quindi con tutto rispetto qualcuno dovrebbe spiegare a Sarkozy che è l'esatto opposto il modo in cui si procede. Finché operi dentro l'Europa sei dentro un unico mercato, e quando vai in India che casomai puoi essere accusato di danneggiare l'Europa. Però, sì. Esattamente, qui, qui c'è stata la molto irata reazione del primo ministro ceco Topolánek. Ma poi Sarkozy è un ungherese di famiglia, sì, francese, sì, di adozione, sposato con un'italiana, insomma ne sa qualcosa di mercato unico europeo, no? Certo, senz'altro, però ovviamente lì la preoccupazione è quella di salvaguardare i posti di lavoro dell'industria francese, che sono poi Enrico, i francesi che votano per lui. Sì, adesso abbiamo un'informazione meteo, poi vorrei passare alla parte italiana con la dichiarazione del ministro Tremonti, che vi faremo ascoltare. In una battuta però, com'è possibile che Peugeot Citroën, per esempio, ha appena ottenuto un prestito agevolato dallo Stato francese di 3 miliardi in cambio dell'impegno di non chiudere gli stabilimenti in Francia e di evitare licenziamenti? Ma un prestito agevolato non è aiuto di Stato? Ecco, anche in questo caso ci sono dei parametri che devono essere valutati da Bruxelles, nel senso che a seconda del differenziale rispetto ai tassi di mercato è senz'altro un aiuto di Stato. Ora però, come dicevamo, la Commissione europea ha un po' allargato i parametri tenendo conto di questo periodo di crisi, per cui tutto sta nel differenziale tra i tassi di mercato e questo tasso agevolato, che deve essere in genere negoziato con Bruxelles. Allora, meteo, pubblicità e poi il resto, ossia la parte italiana, un aggiornamento visto che ci chiedevate della borsa. Allora, Geithner, il segretario tesoro Timothy Geithner, quindi il neo ministro dell'economia americano, ha detto la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, potrebbe ampliare a 1.000 miliardi di dollari la parte degli aiuti per rilanciare il credito e stabilizzare il mercato. Il cosiddetto Term Asset Bank Security Loan Facilities è un piano a sostegno della liquidità con cui si sostiene il mercato delle cosiddette ABS, cioè titoli che poggiano su altri titoli, quelli sono rischiosi e pericolosi, ma soprattutto quelli che riguardano molti prestiti, e qui sono prestiti anche agli studenti, ai finanziamenti per comprare le auto, alle carte di credito, insomma tutta la parte del cosiddetto credito al consumo in senso molto lato. E poi Gartner ha continuato: le banche che hanno bisogno riceveranno aiuti. Non so spiegarmi sulla base di queste dichiarazioni perché la borsa americana abbia perso 0,5 punto percentuale nell'ultima mezz'ora. Devo dire che la chiusura è stata di questo tono su Parigi, -2,90, questo punto pesante di calo. Francoforte -2,50, Londra -2, Milano -2,23, sull'S&P MIB -2%, sul MIBTEL sono un po' migliorate nel finale, erano arrivate a perdere fino al 3% mentre aveva iniziato a parlare Gartner. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcuni di voi dicono: beh, non si può dare solo la colpa alle banche per la crisi dell'auto. L'abbiamo detto, il caso General Motors, il caso anche Ford, Chrysler, alcuni casi europei, insomma non è pensabile che solo la crisi finanziaria abbia generato questa crisi nel settore delle quattro ruote. Pensiamo ai numeri, li vedremo poi sulla produzione industriale. Mediamente la produzione fa un -10, molti settori fanno -5, -6, che è già un bel calo, ma l'auto in tutta Europa fa -40. Ora evidentemente c'era un mercato in cui la domanda faticava comunque, ed ecco perché deve essere così aiutato. Ma restiamo con Enrico Brivio per quello che riguarda invece la posizione italiana emersa oggi nel vertice Ecofin. Il ministro Tremonti, ascoltiamolo, prima sull'uso dei fondi europei, per dei 5 miliardi di fondi europei non spesi dall'Italia. Su questo Tremonti è stato possibilista, forse anche un po' attendista. 5 miliardi, la discussione è iniziata, credo che ci sia, c'è una riserva di approfondimento, comunque l'opinione contraria è stata espressa da tutti i paesi maggiori contribuenti. L'Italia è tra i maggiori contribuenti, ma non è stata la prima a porre la questione di merito, critica sull'esigenza di un approfondimento. Le ragioni sono state non solo finanziarie, ma anche, tra virgolette, economiche, cioè dire non solo perché dobbiamo mettere più soldi, sarebbe stato miope, ma una critica sulla qualità e sulla tempistica degli interventi. Fossero adatti anticrisi, era un'ipotesi, vengono considerati molto eterogenei, molto proiettati nel tempo e quindi non coerenti con la crisi in atto. Tuttavia c'è una riserva. Riserva, Enrico Brivio, di che genere soprattutto? Ma come si diceva, il fatto che questo pacchetto di 5 miliardi dovrebbe essere utilizzato in funzione anticrisi. Poi il problema è però di trovare un utilizzo che vada bene a tutti i 27 paesi, per cui alla fin fine si era parlato in un primo momento di reti energetiche, c'è il gasdotto famoso Nabucco, ma poi c'è il gasdotto invece ITG che interessa di più l'Italia, che passa attraverso la Grecia. Poi si è passato a interventi sulla banda larga e anche una parte di interventi nello sviluppo rurale per andare incontro ad altre esigenze di altri paesi, della Francia e via discorrendo. Per cui alla fin fine è venuto fuori un po' un pacchetto, come diceva il ministro Tremonti, un po' una cozzaglia di misure che poi non sembrano avere questo impatto nel breve periodo che sarebbe necessario per arginare la crisi. Sì, tra l'altro, oltre che essere, lo dico con massimo rispetto, poche lire, 5 miliardi per tutta l'Europa, sono anche una coperta così corta che tutti la strattonano, perché appunto, come tu ricordavi, c'è chi vorrebbe farci un certo tipo di infrastrutture energetiche, chi un altro, chi vorrebbe usarle per le reti telematiche, insomma. Così mi sembra un po', sì, da un lato ambizioso, dall'altro inutile, perché più aspettano a usarli, a meno non facessero una cosa, non so, con 5 miliardi facciamo un bel corridoio, il corridoio 5 per esempio, che converrebbe a noi. L'altro... Il problema è che su queste decisioni finanziarie, sul budget comunitario, ci deve essere l'unanimità. Allora stiamo freschi, perché i soldi ce ne sono pochi per tutti. Sentiamo Tremonti sugli aiuti collegati al mantenimento dell'occupazione, cioè la linea scelta dalla Francia. Faccio notare che l'Italia non ha mai chiesto deroghe al divieto di aiuti. Non abbiamo mai chiesto. Altri paesi hanno invocato, applicato l'articolo 87. L'ipotesi di collegare gli aiuti a protocolli sull'occupazione e sulla conservazione di alcune strutture industriali mi sembra molto ragionevole e molto compatibile con la nostra politica e con gli orientamenti europei. Quindi un collegamento fa molto senso, non c'è un paese per quanto liberista che usando strumenti che sono l'opposto di quelli liberisti, cioè facendo aiuti di Stato, non ponga una questione, diciamo, funzionale in cambio di almeno questo. Ai ai ai, vedo adesso la chiusura delle borse pesante, perché il dato finale Parigi è meno 3,6, Francoforte meno 3,4, l'America perde il 3,8%. Ha ragione un ascoltatore che dice il neo ministro del tesoro americano Geithner non se lo dimenticherà mai questo esordio. Eh sì, un brutto esordio. Non ho ancora capito cosa abbia detto di così negativo, perché non ho altre agenzie rispetto a quello che ho letto, ma veramente Wall Street ha perso 2 punti nell'arco di 40 minuti. Quant'è che abbiamo iniziato? 38 minuti. E Milano, per fortuna, è meno 2,2%, è la borsa che perde meno oggi rispetto alle altre, veramente impicchiata negli ultimi 40 minuti. Allora, Enrico Brivio, chiudiamo anche su questo. Tremonti si è voluto togliere una soddisfazione, ha detto noi non abbiamo mai chiesto deroghe, altri paesi, il riferimento era alla Francia. È un Tremonti che cerca di mostrare, a mio avviso anche correttamente, come l'Italia sia, pur con la sua bassissima crescita, anzi recessione anche quest'anno, pur con i suoi problemi di debito pubblico, sia un paese meno toccato dalla crisi sul fronte delle banche e anche meno, diciamo, che rompe meno le regole europee. Sì, diciamo che anche nel corso della conferenza stampa Tremonti ha molto battuto su questo tasto e ha invitato anche insomma, i giornalisti a enfatizzarlo un po' di più, il fatto come l'Italia in fondo, sia per quanto riguarda la dinamica del debito, sappiamo che l'Italia ha un fardello di debito a 3 cifre che altri non hanno, però in questa crisi ha visto il debito crescere a un ritmo inferiore a quello di altri paesi che sono impegnati in questi salvataggi di queste megabanche, e ha anche ricordato come ci sia un debito pubblico ma ci sia un molto più risparmio privato rispetto ad altri paesi dove invece c'è un indebitamento privato che aggrava ulteriormente le situazioni, insomma in una situazione comunque non rosea per l'Europa, diciamo che l'Italia comunque in questo frangente non figura tra i peggiori allievi. Una volta tanto, ed è giusto anche rimarcarlo. Grazie Enrico Brivio, in collegamento con noi da Bruxelles. Allora, visto che tutto il movimento di borsa è tutto americano, adesso ci sono le informazioni per chi è in viaggio. Chiedo scusa ai colleghi di Radio Cor, saltiamo oggi l'appuntamento con loro, tanto i casi a Milano come nelle altre borse europee sono cambiate nell'ultima ora. Infatti Seat perde 7,60, Tenaris il 5,5, Fiat il 5, tutto movimento americano. E ripeto, il calo a Francoforte è stato del 3,5, a Parigi quasi del 4% in 40 minuti. Quindi mi sembra più corretto collegarsi poi con l'America e capire che cosa ha detto Geithner. L'ultima agenzia che leggo è che le banche americane verranno aiutate con altri 500 miliardi di dollari. Tantissima roba. Forse il mercato si interroga a questo punto quanto profondo sia il rosso dei colossi bancari, visto che sembravano le svalutazioni principali essere già uscite. Allora, adesso cerchiamo di capire che cosa ha detto il segretario del Tesoro americano per deprimere in maniera così brusca nelle borse europee e Wall Street. Wall Street sta perdendo quasi il 4% adesso. Ricordo che 40 minuti fa, quando abbiamo iniziato il programma, perdeva intorno al 2, quindi ha preso quasi 2 punti in 40 minuti. Vabbè. Così come Parigi ne ha preso 1,5 e alla fine, nell'ultima mezz'ora di contrattazione, alla fine ha perso il 3,7%, Francoforte meno 3,5%, Londra la migliore, meno 1,6, Milano meno 2,2 sull'S&P MIB e meno 2% su MIBTEL. I titoli SEAT meno 7,60%, Tenaris meno 5,5, Saipem meno 5,3, Fiat meno 5, Banco Popolare meno 4,4, Mondadori meno 4,2, Generali meno 4%, Prismian meno 3,80, il 3% l'ha perso Unipol, ma anche Eni e Luxottica, Enel meno 2,80, Steamark Electronics meno 2,80, poi via così Mediaset, Lottomatica e Bulgari meno 2,6, Fondiaria meno 2%, come Buzzi Unice e Telecom Italia. Ha guadagnato Pirelli più 3,20% in attesa della presentazione del piano industriale di domani. E Terna più 1,8%, Snam più 0,7%. Su Terna è arrivato oggi anche io in raccomandazione di Citigroup, che ha beccato decine di miliardi di svalutazioni, da lasciare stare, però è arrivato un buy, ossia un giudizio positivo comprare da parte di Citigroup, questo però all'indomani del taglio del voto operato da Moody's. Comunque, tutta la borsa oggi si chiama Wall Street come andamento. Sentiamo Geithner, neo segretario del Tesoro americano, Timothy Geithner, ex numero uno della Fed, della Banca Centrale Americana, come sede a New York. Ha detto: serviranno 500 miliardi alle banche e possiamo ampliare gli aiuti a 1000 miliardi. La Fed può farlo. Ascoltiamolo in inglese. Last Friday we learned that the economy had lost 3 million jobs last year. And an additional 600,000 jobs just last month. As demand falls and credit tightens, businesses around the world are cutting back the investments that are essential to future growth. Trade among nations is contracting sharply as finance dries up. Home prices are still falling as foreclosures rise, and even creditworthy borrowers are finding it harder to finance the purchase of a new home or to refinance their existing mortgage. Instead of catalyzing recovery, the financial system is working against recovery. At the same time, the recession is putting greater pressure on banks. This is a dangerous dynamic, and we need to arrest it. It's essential that every American understand. Ecco Geithner che raccontava come i dati sull'occupazione, i 3 milioni di disoccupati, i 600.000 che sono appena creati, il calo dei prezzi immobiliari, siano questi, l'abbiamo sentito praticamente in diretta, sono questi i temi più delicati dell'economia americana. Ci colleghiamo subito con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, buonasera, come mai le parole di Geithner hanno portato le borse a prendere questo scivolone? Ma guarda, direi che più che per quel che ha detto e per quel che non ha detto, il mercato si aspettava forse qualche cosa di più dettagliato, molto di quel che ha annunciato oggi Geithner in un modo o nell'altro lo conoscevamo già, non c'è stata una vera rivelazione, e laddove ci si aspettava invece delle rivelazioni, ebbene queste rivelazioni non ci sono state. Il suo è stato un discorso più di medio termine, ispirato, politico, per cercare così di rassicurare l'opinione pubblica e i mercati. Direi che, ahimè, purtroppo in questo non è riuscito. I due punti, secondo me, che mancano sono una spiegazione di come funzionerà uno dei quattro pilastri su cui poggia il suo pacchetto di rilancio per il sistema bancario e per la stabilizzazione del settore bancario. Ricordiamolo, la stabilizzazione è essenziale per poter far riprendere le economie e per poter far sì che il pacchetto di stimoli fiscali in discussione al Congresso poi abbia un suo effetto benefico e non vada a finire nel vuoto. Senza sistema bancario, senza una ripresa del credito, questo non funzionerà. Il problema, appunto, è che Geithner ha detto che si daranno quattrini per cercare di stabilizzare il settore dei mutui, aiutando direttamente i consumatori, i proprietari di case che oggi si trovano in difficoltà, non ce la fanno arrivare alla fine del mese, rischiano di perdere la loro casa. Se i creditori recuperano la casa, fanno il pignoramento e la vendono, i prezzi crollano ulteriormente, si crea una spirale negativa e dunque bisogna aiutare queste persone. Ma non ha detto come, ha detto che ci vorranno forse 3 settimane per conoscere i dettagli. Questo preoccupa il mercato che invece di incertezze cerca certezze. Ecco perché Mario, cercavamo noi non certezze ma una notizia forte tale da giustificare i 2 punti percentuali che Wall Street ha perso, come Gaetan ha iniziato a parlare, e non abbiamo trovato nulla di così drammatico. Il governo può ampliare tramite la Fed gli aiuti a 1.000 miliardi di dollari, 500 miliardi per il sistema bancario. Tu giustamente stai facendo notare che è proprio quello che non ha detto, che non ha promesso, che non ha lasciato intendere ad aumentare il livello di incertezza in un paese in cui, dato che tu ricordavi, si stanno creando 500.000 di disoccupati ogni mese, di nuovi disoccupati ogni mese. Mario. Sì, infatti questo è stato il tema centrale poi del suo discorso. Nel momento in cui l'economia non funziona, dobbiamo risistemare il sistema bancario, c'è uno sforzo coordinato, il paese interverrà, ha promesso la garanzia e la tutela del denaro del contribuente, e ci saranno 1.000 modi per poter garantire che questi soldi, ha sottolineato, che sono dati in prestito e dunque non sono dei soldi buttati al vento, ritorneranno poi al governo e al contribuente, ci saranno controlli serrati, si cercherà di capire quali sono i compensi per i dirigenti e così via, così via, così via. Però ecco, direi la sensazione è che alla fine si è trattato molto molto di parole, ci sono più soldi, ma avevamo ascoltato più o meno le stesse cose quando parlava Paulson, con una retorica forse leggermente più incerta, devo dire la retorica di Geithner è stata alquanto incisiva. Sì, ma non si esce dalla crisi con la retorica, potrà servire però qualcosa. Non si esce con la crisi dalla retorica e a questo però detto questo, secondo me la reazione del mercato è una reazione nervosa, è una reazione a caldo, è una reazione perché ci si aspettava la notizia stravolgente che non c'è stata. La mia impressione è che abbiamo davanti a noi 10 giorni chiave in cui questa crisi dovrà essere risolta con un programma coordinato. Questo pacchetto di oggi è soltanto un assaggio. Mario, noi abbiamo 10 giorni, ma nel programma abbiamo un minuto ancora prima del GR. Io vorrei sapere, in un minuto, può essere che Obama abbia più difficoltà di quanto non credesse a trovare questi soldi? Alcuni ascoltatori dicono, ma se l'America va avanti così dovrà stampare moneta a un certo punto. Ma no, dunque i soldi li ha trovati, poiché il fatto che stampi moneta alla fine in un modo o nell'altro dovrà farlo temo lo stesso, ma il discorso non è tanto quello, il discorso è una volta che si è creato questo pacchetto sul piano di stimolo fiscali, questo di aiuto alle banche, il pacchetto di aiuti alle auto, basterà? Sarà sufficiente questa iniezione dopo che la precedente non è bastata a superare questa crisi? Ecco, questa è l'incertezza di fondo del mercato, questo è quello su cui ci si interroga oggi. Grazie, la domanda resta aperta. Con questa domanda aperta, ahimè, chiudiamo, ahimè, sulla domanda, non perché ci fermiamo adesso, la prima parte del programma, il GR, poi seconda parte, il rapporto banche piccole medie imprese italiane, 2 inchieste oggi sulle esigenze delle piccole e medie e sul rapporto con il credito. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, posto che le borse e soprattutto Wall Street sono rimaste deluse da quello che Gaetan non ha detto, come ci ha raccontato il corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, Mario Platero, più che da quello che ha detto, cioè discorso molto di principio, molto possibilista, ma senza, diciamo, quella notizia forte tale da far cambiare le prospettive ai mercati, anzi li ha fatti peggiorare. L'America sta comunque perdendo un 3,6%. Detto ciò, la produzione industriale italiana oggi, come ricordavamo, è risultata in calo nel 2008 del 4,3% e nel solo mese di dicembre rispetto al dicembre del 2007 del 12,2%. Visto che adesso parleremo anche di rapporto tra piccole e medie imprese, appunto in estrema difficoltà, e la crisi, e piccole e medie imprese e le banche, ascoltiamo questa scheda che ricorda gli elementi principali di questo, ahimè, ennesimo crollo nella produzione industriale, devo dire per buona parte dovuto all'auto, visto che l'auto ha fatto il 49% di calo. L'industria l'industria dell'auto si conferma in pieno occhio del ciclone, con una produzione che lo scorso dicembre è andata letteralmente a picco, meno 49% rispetto all'anno prima. Ma se il crollo delle quattro ruote era previsto e annunciato, ciò che emerge di nuovo dai dati Istat è che i venti della crisi iniziano purtroppo a soffiare forte su tutte le produzioni del Made in Italy. Si va infatti dal meno 16% di pelli e calzature al meno 11% della chimica, passando per il meno 15% della meccanica o dal meno 13% dell'elettronica. Una sequenza di flessioni a due cifre che fanno apparire quasi una consolazione i cali del tessile e abbigliamento, meno 7%, dell'industria del mobile, meno 5%, o di quella alimentare, meno 4%. Il gelido dicembre dell'industria italiana ha suggellato un difficile 2008, che già era stato ben avaro di soddisfazioni, con soli due mesi in positivo, vale a dire gennaio e aprile. E dopo otto mesi consecutivi in rosso, non sorprende quindi che il 2008 si sia chiuso con il peggior risultato da almeno 17 anni a questa parte. C'è tuttavia anche chi è riuscito a risalire la corrente, come l'industria del mobile, cresciuta dello 0,6%, o chi ha saputo quantomeno limitare i danni, contenendo i cali entro il 3% rispetto al 2007, come l'alimentare, il tessile abbigliamento, l'elettronica o la chimica. Sempre sui 12 mesi, il risultato peggiore riguarda invece la produzione di auto, in discesa del 18%, mentre la poco invidiabile seconda piazza spetta all'industria di pelli e calzature, che ha chiuso il 2008 con un meno 10% rispetto all'anno prima. Allora, questo è il dato e ahimè non ci si poteva aspettare di meglio, tant'è che Confindustria prevede anche a gennaio sarà profondo rosso sulla produzione industriale, meno 15%, e sempre il centro studi di Confindustria prevede che quest'anno il PIL italiano calerà più di quanto previsto, ossia oltre il 2,5%, sarebbero veramente danni. Addirittura poi arriva l'ISAE, a questo punto il nostro animale preferito mi sa che non riesce più a stare fermo e soprattutto zitto. Arriva l'ISAE che dice a gennaio no, la produzione industriale farà meno addirittura 19,3% e questo calo non ha ancora toccato il fondo. E va bene, il gufo abbiamo cercato di mettergli la museruola oggi, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta. Che cosa chiedono le piccole e medie imprese italiane, soprattutto le piccole, di fronte a questa crisi che le lascia più nude, più scoperte rispetto ad altre? Era l'oggetto di un'indagine realizzata tra 1600 imprese di tutto il paese. L'ha condotta la Fondazione Sussidiarietà, uno degli economisti che la curata è Giovanni Marseguerra della Cattolica di Milano. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Allora, professor Marseguerra, che sappiamo che il 98%, anzi il 99,5% di tutte le imprese italiane ha meno di 50 dipendenti e comunque il 98% neanche meno di 25. Ma cosa chiedono le piccole imprese? Ma guardi, questa indagine della Fondazione per la Sussidiarietà ha cercato di raccogliere un campione rappresentativo sia sotto il profilo settoriale sia sotto il profilo dimensionale, quello territoriale, un campione rappresentativo del variegato mondo di queste nostre piccole e medie imprese che, come sentivamo anche prima dal servizio, sono in grande difficoltà. Noi siamo un paese che si regge sull'export e queste piccole e medie imprese costituiscono il nucleo forte del nostro sistema produttivo. Ebbene, le domande a cui la ricerca ha cercato di rispondere fanno riferimento, per esempio, alle modalità con le quali queste nostre piccole imprese si stanno attrezzando per affrontare nel modo meno devastante possibile questa crisi. Come poi possono essere aiutate è un'altra questione fondamentale. Allora, i risultati di questa ricerca ci dicono molte cose interessanti. Per esempio, emerge come sia prevalente nel modo di fare impresa un modello che noi chiamiamo sussidiario, nel senso che combina i necessari requisiti economici, quindi la ricerca del profitto, con altri obiettivi, come per esempio la crescita dell'impresa, la creazione di posti di lavoro, che sono ugualmente importanti e che sono più ampi e legati al benessere collettivo, come per esempio anche favorire l'occupazione o anche finalità di tipo sociale. Più in specifico, quali sono le principali richieste di queste nostre piccole e medie imprese? Ne cito tre. Prima di tutto, più libertà e meno burocrazia. Un punto molto sentito è quello della semplificazione amministrativa e anche fiscale. Maggiore decentramento nelle contrattazioni salariali, le famose contrattazioni di secondo livello che finalmente si stanno facendo strada. Terzo punto, grande sensibilità verso la cooperazione. Le nostre piccole imprese sono pronte a mettere assieme le forze per promuovere la ricerca e sviluppo e per l'internazionalizzazione. Sono due grandi obiettivi che possono essere raggiunti cooperando, senza nulla togliere alla concorrenza. Ma mi lasci dire un'ultima cosa: se c'è un risultato che ci sembra particolarmente importante che emerge da questa indagine, è che se si studia la imprenditorialità basandosi soltanto su un approccio legato alla massimizzazione del profitto di breve termine, il profitto trimestrale, ecco, si raggiungono dei risultati assolutamente perversi, come dimostra del resto questa crisi terribile che stiamo vivendo, e comunque quando si applica questo modello alle nostre piccole e medie imprese, questo modello non funziona. Alla base della nostra attività imprenditoriale vi è uno slancio, una vitalità, uno spirito di intrapresa che non si possono certamente ridurre alla sola ricerca del massimo profitto. Ecco, grazie, sì, poi su questo però si aprirebbero altri ragionamenti. Certo, l'impresa non deve raggiungere solo il massimo profitto, ma già se lo facesse e lo ridistribuisse avrebbe assolto uno dei suoi compiti principali. Io, diciamo, al ruolo sociale dell'impresa credo, ma questo sarebbe un altro discorso, solo una volta che però l'imprenditore ha fatto l'imprenditore, cioè non attribuiamo all'imprenditore compiti principali che non possono essere i suoi. Altra cosa è dire che il ragionamento strategico deve essere fatto sicuramente non trimestre su trimestre, ma in una logica di sostenibilità comunque dell'area di business. Grazie all'economista Giovanni Marseguerra della Cattolica di Milano, uno dei curatori della ricerca. Allora, adesso il rapporto piccole, medie imprese e banche. Oggi, tra l'altro, alcuni dati diffusi, ma insomma, la società di consulenza per le piccole e medie imprese, che si chiama Officina del Credito, e l'amministratore delegato Fabio Bolognini in collegamento con noi. Buonasera Bolognini. Buonasera a lei, buonasera a voi. Fate consulenza per le piccole e medie imprese per aiutarle a ristrutturare il debito e a pianificare i rapporti con le banche. Allora, la domanda è molto semplice, non la vorrei fare qualunquista, populista, ma evidentemente non ce la faccio. C'è stato un giro di vite complessivamente, lasciamo stare i casi più a rischio, i casi di insolvenza più alta, ma un giro di vite bancario nei confronti delle piccole e medie imprese, rientrare sui crediti e concessi, non concedere nuovi crediti, aumentare il tasso, diciamo, per concedere i crediti, sì o no? Ma la risposta la danno e l'hanno data, diciamo, quasi tutte le associazioni di categoria, segnalando su larga scala. No, me lo dica lei nel suo lavoro, quando lei va a fare consulenza delle piccole e medie imprese, gli imprenditori le dicono: la banca mi ha mantenuto la stessa linea, mi sta facendo rientrare, ha aumentato il tasso, che le dicono? No, diciamo che l'accesso al credito per le società che seguo io è certamente diventato molto più difficile. I prezzi si sono innalzati fino per un certo periodo, forse oggi con la discesa dei tassi si sono un pochino più calmati, però insomma, diciamo che non è che le banche chiamino i clienti per abbassare i tassi, sono sempre i clienti che devono darsi da fare per arrivare a condizioni che siano lei in linea con il riscontra loro. Differenze tra banche e banche, per esempio si è detto che le banche di credito cooperativo, le banche del territorio, le popolari vere, non le popolari diciamo che sono diventate un'altra cosa, hanno avuto meno esposizione in questi strumenti e hanno nel frattempo mantenuto in questi anni l'aspetto, la vocazione retail, non quella di investment banking. Ma se si parla di piccola e media impresa, la piccola e media impresa anche da un punto di vista di così definizioni arriva fino ai 50 milioni, direi che nonostante tutti dichiarino uguale interesse e passione sulla piccola e media impresa, certamente sono le banche più piccole che hanno raccolto i frutti di un distacco da parte delle banche più grandi, le banche nazionali. Alcune banche hanno corso tanto nella crescita, oggi stanno rallentando per non dire fermandosi, quindi sicuramente oggi il sistema di sostegno dato dalle piccole banche popolari, dalle BCC, regge l'urto quando si parla di piccola e media impresa, quando si parla di quella fascia molto ampia di piccola e media impresa che ha dei conti economici un po' risicati e uno stato patrimoniale un po' sbilanciato con poco capitale e molto debito. Qual è la quota delle piccole e medie imprese che, stando ai vostri calcoli, rischiano di vedere aumentare la stretta sul credito? Ma purtroppo è molto grande e in crescita, sia perché diciamo gli automatismi, volenti o nolenti, del sistema di rating di Basilea tendono a penalizzare questa fascia di imprese, sia perché la crisi e questa grande, grave mancanza di liquidità ha aggravato la situazione. Io credo che questa quota, che forse stava un anno fa attorno al 15%, si stia avviando tranquillamente verso il 30%. Verso il 30%, cioè una su tre quasi? Una su tre ha una qualche forma, diciamo, di o crea una qualche forma di preoccupazione nelle banche che l'hanno affidata, e quindi a sua volta dovrebbe preoccuparsi di o tranquillizzare le banche, perché spesso queste preoccupazioni nascono da fattori puramente quantitativi, ve ne sono altri qualitativi che parlano a favore dell'impresa, o comunque fare qualcosa per potersi, diciamo, proteggere da un rischio di riduzione degli affidamenti. C'è poi un secondo problema grave, se vogliamo, che tocca indirettamente le banche, cioè il problema oggi delle piccole e medie imprese è avere la liquidità a fine mese per poter fare i pagamenti. Molte non hanno questa liquidità perché ci sono gravi, gravissimi ritardi nei pagamenti da parte delle grandi imprese, siano esse pubbliche che anche private. Sì, infatti guardi, sta scrivendo un ascoltatore proprio in questo istante, un piccolo imprenditore meridionale, dice: a me basterebbe per superare questa crisi che la pubblica amministrazione mi pagasse nei termini contrattuali e a 90 giorni e non dopo 2 anni, e già questo sarebbe sufficiente. Un'ultima domanda in una battuta: le alternative che voi vedete come appunto società di consulenza per le piccole e medie imprese, quando la piccola e media impresa ha difficoltà o ha maggiore difficoltà nell'ottenere credito bancario? Ma io credo che gran parte del nostro mestiere sia quello di tradurre un linguaggio che l'imprenditore non sa utilizzare nei confronti delle banche e veicolarlo alle banche in modo appropriato. Direi che il rapporto degli imprenditori con le banche è assolutamente migliorabile, per usare un eufemismo. Devono agire in maniera proattiva, devono consegnare dei piani industriali, per quanto semplici, ma certamente tipo pluriennale. Quando l'informazione viene ben presentata alla banca è più facile accedere al credito e non avere, diciamo, poi dei problemi di riduzione degli affidamenti, anche in situazioni di temporanea difficoltà. La banca oggi ha tutto l'interesse a gestire la posizione, a non farla scivolare verso situazioni concorsuali. Segnalo che alcuni scrivono: beh, anche i consulenti vanno pagati e sono cari per una piccola azienda. Avete ragione, nessuno se la prende solo con le banche, quindi tutti necessitano di essere pagati, ed è vero che anche la consulenza costa, poi la consulenza in alcuni casi costa anche molto. Sentiamo invece Corrado Passera, amministratore delegato, o meglio consigliere delegato come si chiamano adesso, di Intesa San Paolo, che non è d'accordo con quanto lei diceva, non che le risponda direttamente, nel senso che ha smentito che vi siano in corso nel gruppo Intesa San Paolo restrizioni ai finanziamenti per le imprese. Oggi possiamo dirci senza tema di smentita che l'Italia è uno dei pochi paesi dove il governo non ha dovuto intervenire in nessun caso di emergenza. Il credito continua a crescere anche se a ritmi inferiori di quelli di 12 mesi fa, ma questo è inevitabile in una situazione di calo della domanda, di calo delle esportazioni, di calo degli investimenti. Per cui mi sembra che come sistema si stia tenendo bene, si abbia ben chiaro tutti che la priorità numero uno è riavviare la crescita. Certamente stiamo arrivando ai minimi storici del costo dei finanziamenti e del mutuo. E con questa affermazione del numero uno di Intesa San Paolo Corrado Passera termina la puntata odierna di Focus Economia. Un ringraziamento anche, poi ognuno si faccia l'idea che vuole, alcuni bancari scrivono, vi assicuro che la realtà sul credito c'è, è vera e tangibile, noi continuiamo a parlarne. Intanto grazie quindi anche a Fabio Bolognini, amministratore delegato di Officina del Credito. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.